Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Come si dice, la legge non ammette ignoranza, non ve lo diciamo col tono del noi sì che vi avevamo avvisati, ma va detto che a Salva Danaio ne avevamo già parlato a metà giugno e il Sole 24 Ore lo aveva già fatto anche qualche giorno prima. Di che cosa avevamo parlato ad inizio giugno? Di questa novità. Dal 26 giugno scorso i minorenni possono recarsi all'estero solo con un documento di identità personale, anche se viaggiano accompagnati da uno o da entrambi i genitori. A quanto pare però la notizia non ha raggiunto in maniera sufficientemente capillare la popolazione italiana, in particolare quelle famiglie che, tra i tanti preparativi per le vacanze, non hanno messo in conto di verificare che tutto fosse in regola anche da questo punto di vista. Il documento d'identità dei figli, un oggetto così piccolo eppure così determinante per rovinare una vacanza. E purtroppo, lo abbiamo letto in diversi giornali nelle ultime settimane, è successo in molti casi di scoprire di non essere forniti della documentazione giusta al check-in dell'aeroporto. Oggi ne torniamo a parlare, raccontando anche con le vostre esperienze, speriamo non troppo negative, rispondiamo a tutti i dubbi e alle domande che vorrete sottoporci, ricordando anche tutti i passaggi necessari nelle procedure per ottenere e rinnovare il passaporto, che a volte rischiano di rivelarsi più complicate del previsto. Peraltro in questi giorni ne abbiamo lette davvero di tutti i colori, tutti fatti di cronaca, in alcuni casi anche un po' agghiaccianti perché hanno come protagonisti alcuni minori, e li stavamo proprio commentando questa mattina con il collega che anche nell'altra occasione, nell'altra puntata, ci ha aiutato ad orientarci un po' in questa materia, Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Matteo, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. E abbiamo anche naturalmente due figure tecniche che ci accompagneranno questa mattina. Saluto e ringrazio il dottor Mario Gagliardi, responsabile del commissariato Università di Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno anche a voi. E grazie anche per essere con noi ad Andrea Zuccotti, responsabile del settore anagrafe del Comune di Milano. Dottor Zuccotti, buongiorno. Benvenuto, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, partirete tra poco per le vacanze in famiglia, sicuri che sia tutto a posto con i documenti oppure siete tra coloro che sono incappati in qualche disavventura dovuta proprio, io vorrei chiamarla leggerezza senza offendermi, ma naturalmente non tutti erano a conoscenza del fatto che anche i minori devono viaggiare appunto con un documento personale e quindi chiaramente si sono ritrovati alla partenza, a parte del personale che si trovavano ad affrontare, con delle contestazioni chiaramente perché i titoli di viaggio non erano tutti a posto, e quindi vacanza annullata, rinviata. Cosa vi è successo? Raccontatecelo all'800240024 oppure al 349-238-6666, al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, oppure andate come sempre fate in maniera anche molto assidua e fitta da qualche tempo a questa parte, andate sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, siete diventati in tanti, io spero che possiate diventare sempre di più, perché in realtà anche da lì ci arrivano tante delle vostre testimonianze, in alcuni casi sono divertenti, un po' folcloristiche, ma più spesso sono molto utili anche per aiutarci a capire quali temi è necessario che approfondiamo di più. Rapidamente la borsa, visto che sono settimane caldissime per i mercati, vediamo un po' oggi come si è aperta la settimana. Si è aperta molto bene, lo dicevamo anche nel giornale radio, c'è un più 2,47% a Milano, più 0,8% Parigi, più 0,9% Francoforte, più 0,5% Londra. Le altre piazze del vecchio continente sono un po' più fredde rispetto a Milano, però Milano, quando ha uno spread in discesa, chiaramente ne beneficiano subito le banche, che stamattina corrono tutte. Adesso è Intesa San Paolo il miglior titolo, segna più 6%, più 5,5% per Monte dei Paschi, più 5 per il Banco Popolare, più 4,7 per Mediolanum, più 4,5 per UbiBanca e via dicendo. C'è l'appuntamento centrale della settimana, che è quello della Banca Centrale Europea, e si attende di sapere quali iniziative vorrà intraprendere Mario Draghi, appunto per dare un sospiro di sollievo ai mercati del vecchio continente. Lo ha già detto la settimana scorsa: farò tutto quello che ho la possibilità di fare per proteggere l'eurozona e chiaramente evitare che la crisi diventi irreversibile. Questo è il quadro di borsa di questa mattina. Direi che però possiamo andare subito al tema di oggi. Come vi avevo detto, parliamo di viaggi all'estero, in particolar modo di tutte quelle famiglie che nelle ultime settimane, arrivando magari in aeroporto, hanno dovuto o cancellare o comunque rimandare la partenza perché si sono rese conto che il minore con loro non era a posto con i documenti di viaggio. Questa di chi è? Di Megan? Di Brooke. Allora datela a Brooke. E questa è di Kevin. Dalla Kevin. Dai questa Kevin. Kevin non c'è. Cosa? Chi non ha visto almeno una volta nella sua vita questo film, Mamma ho perso l'aereo, adesso qua non si trattava di un bambino senza documenti, si trattava di un bambino particolarmente pestifero che naturalmente aveva combinato tutta questa cosa, non era partito con la famiglia, però in ogni caso abbiamo sentito la reazione della povera mamma, della mamma del pestifero Kevin, appunto quando si accorge di aver perso di nuovo il figlio all'aeroporto nella lunga catena di passaggi di bagagli fra i tanti parenti in viaggio per le vacanze di Natale. Un po' forse quello che potrebbe essere capitato con la famiglia di Manchester, che invece in casa non trovava il bambino di 11 anni. Lui se n'era andato di casa, aveva raggiunto l'aeroporto ed è riuscito persino ad imbarcarsi e a volare fino a Roma, dove lo hanno appunto trovato gli operatori della polizia di Fiumicino. Anche questa è una vicenda che ha un po' dell'incredibile, perché ci sembra impossibile che un minore possa addirittura bypassare senza problemi tutti gli ostacoli che si trovano nel corso appunto di una partenza in aereo. È così complicato, dobbiamo tirar fuori i documenti ogni due per tre, non capisco come mai questo bambino addirittura abbia avuto la possibilità di arrivare a Roma. E lui tra l'altro candidamente ad una hostess aveva detto: ma io viaggio tranquillamente perché voglio vedere questa città, non capisco di che cosa abbiate bisogno, insomma. Matteo Prioschi, allora, abbiamo detto prima, noi ci siamo già occupati più di un mese fa di questo argomento per appunto spiegare ai nostri ascoltatori cosa sarebbe cambiato dal 26 giugno e effettivamente l'avevamo forse, non dico trattata con l'acqua di rose questa tematica, pensavamo che effettivamente forse la informazione fosse stata un po' più capillare fra la popolazione, abbiamo scoperto che invece non è stato così. Sì, esatto, le cronache delle ultime settimane riportano appunto numerosi casi di famiglie e genitori che sono arrivati in aeroporto, perché il problema principale si manifesta in aeroporto, dove c'è il controllo dei documenti, sono espatri in macchina, diciamo, finché non viene fermato da un agente di polizia, mm-hmm. non ha riscontri, ad esempio. Quindi i problemi principali sono in aeroporto, dove ci si accorge che appunto non si è in regola con i documenti. Questo perché dal 26 giugno scorso è entrato in vigore un regolamento europeo, che tra l'altro risale al 2009, ma che appunto ha avuto diverse fasi, diciamo così, di entrata in vigore, e la data ultima è quella relativa a due mesi fa, ormai a un mese fa, e prevede che tutti i minori che viaggiano devono essere in possesso di un documento personale. Quindi cosa cambia rispetto al passato? Che in passato spesso i genitori facevano scrivere il minore sul proprio passaporto, operazione che era consentita per i ragazzi e le ragazze fino a 16 anni non compiuti. Questa soluzione non è più valida, uh-huh. Quindi se uno arriva in aeroporto per imbarcarsi e ha il figlio iscritto sul passaporto, viene negato l'imbarco, perché appunto il minore deve essere in possesso di un documento proprio, personale, quindi o una carta d'identità o un passaporto, o eventualmente sempre valido nei paesi che lo riconoscono il certificato di nascita valido per l'espatrio. Tra l'altro ci dicevi tu che nella sostanza noi stiamo ottemperando ad un regolamento europeo che è in vigore già da qualche tempo, no? No, perché sai, ho sentito anche molti commenti di famiglie che sono un po' hanno espresso anche il loro disappunto rispetto a questa novità, perché comunque sono soldi da tirar fuori, sono marche da bollo appunto da pagare, tempo da perdere per andare in questura piuttosto che in comune, e molti hanno detto ecco un'altra iniziativa anche il governo per spillarci dei quattrini. Non è esattamente così, non sono le norme Salva Italia che hanno introdotto appunto questo nuovo obbligo. No, assolutamente, l'Italia si è dovuta adeguare al regolamento europeo che appunto risale qualche tempo fa, poi c'è sempre un lasso di tempo dall'approvazione all'entrata in vigore. E l'entrata in vigore è l'ultima, diciamo così, scadenza senza più possibilità di deroga, ovviamente sia giugno. Mario Gagliardi, responsabile commissariato Università di Roma, ancora buongiorno. Quante disavventure negli aeroporti d'Italia a causa di questa novità che in molti non conoscevano? Non le dico di darci delle statistiche esatte, naturalmente, però sicuramente gliene avranno raccontate molte, gliene avranno trasmesse molte. Sì, al di là dei racconti c'è proprio materialmente un riscontro pseudo-statistico che viene presente dalle istanze di passaporti per minori che sono aumentate, hanno aumentato il numero complessivo delle istanze del 50-60%, quindi c'è ovviamente un incremento notevole di richiesta di documenti per tutti quelli che ovviamente con l'estate, con l'approssimarsi dell'estate, hanno la necessità di espatriare con minori. Quindi questo è un dato certo e sicuramente questo ha comportato disagi per l'utenza e criticità per tutti gli uffici interessati all'espatrio. Chi secondo lei, adesso non è che vogliamo mettere qua a giudicarci, non ci vogliamo mettere a giudicare naturalmente l'operato delle società che operano nel settore del turismo, compagnie aeree, agenzie di viaggio e quant'altro, ma secondo lei che cos'è che non è funzionato? Voglio dire, perché ci sono tante famiglie che si sono trovate in difficoltà? Come mai si parte qualche volta in maniera così leggera per un viaggio che, soprattutto quando ce lo diceva anche prima Matteo Prioschi, se si parte appunto per andare da una parte all'altra del pianeta, è anche abbastanza originale che non si pensi a queste cose. Dottor Gagliardi, che ne pensa? Io ho una nota di Alitalia, ce l'hanno trasmessa venerdì scorso quando hanno saputo che avremmo fatto questa trasmissione, dove assicurano che è da aprile scorso che il loro call center, così come tutte le agenzie che intermediano i loro voli, avevano appunto l'obbligo di avvisare i clienti che acquistavano biglietti per i minori del cambiamento delle procedure, ma forse non tutte l'hanno fatto. Qual è la sua sensazione? Ma vede, l'aspetto, cioè i soggetti che comunque in qualche modo hanno a che fare con l'espatrio delle persone, comunque anche ovviamente dei minori, sono tanti. Le procedure sono comunque relativamente complesse. C'è stato un difetto di comunicazione, perché questo è un dato oggettivo. Se la gente arriva in aeroporto e non sa di questa notevole novità, è evidente che qualcuno o comunque bisognava meglio comunicare questo aspetto. Noi come Polizia di Stato lo abbiamo inserito nello strumento che abbiamo per comunicare con l'esterno fondamentale, cioè sul sito della Polizia di Stato. Abbiamo cercato ovviamente anche da questo punto di vista di comunicarlo a più soggetti che ci è stato possibile raggiungere. Resta di fatto che chi è direttamente coinvolto su questo tipo di aspetto sono le agenzie e le compagnie aeree. È un mondo complesso, quindi io non so oggettivamente cosa sia stato fatto e in che modo. Resta un dato certo: questa per fortuna non è una regola italiana, è una regola, come si diceva poc'anzi, europea. È una raccomandazione antica, addirittura del 2004 all'inizio, è entrata in vigore quando forse non era troppo opportuno, nel senso che il 26 giugno ovviamente è stato un fatto un po' che ha complicato e non agevolato, però era una regola conosciuta da parte di tutti gli operatori del settore. Sicuramente comunicarlo era un dovere, a quanto pare in qualche modo un deficit c'è stato e questo è quello che scontiamo tutti. Certo. Allora andiamo ad Andrea Zuccotti, sentiamo un po', siccome si va molto spesso anche in comune per riorganizzare tutta la documentazione di viaggio. Credo che all'Anagrafe di Milano, adesso non so se sia stata fatta una campagna appunto di comunicazione ad hoc per trasmettere alla cittadinanza questa novità, so che però sono stati emessi, dottor Zuccotti, molti documenti d'identità nuovi di recente. Quanti hanno riguardato i minori che appunto volevano mettersi a posto con le novità di cui stiamo parlando questa mattina? Ma allora, intanto c'è da dire questo: parliamo di solo nel periodo che va dal 1 giugno al 18 luglio 2012, quindi quando ho tirato fuori queste statistiche, diciamo piuttosto recenti, ho 13.000 carte d'identità emesse per soggetti la cui fascia di età è tra gli 0 e i 15 anni. Però se mi è permesso vorrei fare una precisazione, perché qua con anche col collega della questura andiamo a sovrapporci su un discorso che però invece va tenuto distinto. Intanto la carta d'identità, che è un documento valido per l'espatrio se il cittadino, che deve essere italiano, noi non rilasciamo carte d'identità valide per l'espatrio a cittadini stranieri ovviamente, se il cittadino ce la richiede valida per l'espatrio per sé e per i figli, dà una possibilità di espatrio che è molto più limitata a quella del passaporto. Certo. E questa è la prima distinzione, per darci un'idea, anche se non è precisissima, comunque l'area Schengen permette il transito con la carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini appunto dell'Unione Europea, cioè o meglio per i cittadini aderenti agli stati che aderiscono a Schengen, mentre il passaporto ha una validità ovviamente limitata, salvo poi la necessità di porgli un visto in determinati paesi, se si vuole appunto espatriare in quei determinati paesi che richiedono il visto. La carta d'identità quindi è un documento che serve a viaggiare fondamentalmente, per dirla in maniera semplice, in Europa e in poche altre eccezioni dell'area del Mediterraneo. Inoltre c'è un'altra fondamentale differenza che per noi ha sancito proprio un aumento abbastanza rilevante dell'attività. Non è quest'anno per noi il problema, non è il 26 giugno del 2012, ma per noi il problema è stato il 1 giugno del 2011, quando nel dare attuazione ai regolamenti comunitari il legislatore italiano ha deciso di togliere quel limite che è esistito appunto fino al giugno del 2011 dei 15 anni. Una volta la carta d'identità si rilasciava sopra i 15 anni, sotto i 15 anni c'era quel documento che era una specie di certificato di identità con fotografia, che citava prima Brioschi correttamente, un documento molto anacronistico perché è previsto da una convenzione internazionale abbastanza datata, che veniva vidimato, veniva rilasciato dal comune, vidimato dalla questura, quindi il cittadino aveva già due passaggi, non il massimo della comodità, e permetteva poi l'espatrio sempre nell'area limitata dei paesi dell'area Schengen. Quindi dal giugno 2011 noi abbiamo avuto un aumento dell'utenza potenziale, si immagini che su un comune di Milano noi eravamo arrivati a emettere circa 110-120 mila carte d'identità l'anno, con questa aumento di clientini anzi, perché sono piccoli, abbiamo avuto un più 40% secco dal momento in cui è entrato in vigore. E questo insomma tanto per dare il conto anche di quello che si fa all'interno delle amministrazioni comunali, che non è solamente tanto folklore politico per i cittadini che ne leggono sui giornali. No. Allora, visto che lei ha fatto questa differenziazione di questa novità anche dall'anno scorso delle soglie di età sopra sotto 15 anni, c'è un caso, quello di Maria Grazia dalla provincia di Lecco, che colgo al volo prima dello stop pubblicitario, così vediamo se riusciamo a risponderle. Maria Grazia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie Debora. Ascolti, le telefonavo per questo interrogativo che abbiamo come genitori. Nostra figlia compirà i 16 anni il prossimo ottobre, ha il documento di identità, la carta d'identità, andrà in Inghilterra per una vacanza studio con un'amica che ha 16 anni. Non avremo sorprese, nel senso che diciamo l'espatrio verrà regolarmente, oppure credo che per andare a Londra sia più che sufficiente, però magari sentiamo. Dottor Gagliardi, ci vuole aiutare lei o devo andare a Zuccotti? No, può andare tranquillamente, per fortuna tra l'altro, ecco, in ambito europeo, come diceva il collega, la carta d'identità è un documento tranquillamente valido, quindi insomma non c'è nessun problema, non c'è difficoltà in questo caso. Quindi Maria Grazia la mandi, anzi ha fatto bene, la faccia stare quanto più possibile, perché sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile per sua figlia. Allora noi ci fermiamo adesso, credo sì, di poter fare già la prima pausa pubblicitaria. Vi ricordo che potete ancora continuare a chiamarci all'800 24 00 24, a scriverci al 349 238 6666. È pronto anche Alberto da Biella. Poi volevo condividere anche con gli ascoltatori un'altra storia che riguarda anche il tema di questa mattina, anche se per la verità poi i commenti che si possono fare su quella vicenda sono di ad ampio spettro, la vicenda appunto di quella coppia in Polonia che in un aeroporto appunto polacco ha lasciato lì la sua bambina, la loro bambina di 2 anni, pronti ad andare in vacanza in Grecia perché questa bambina aveva un documento scaduto. Anche lì bisogna vedere come un minore di 2 anni possa avere un documento già scaduto, l'hanno lasciata lì in attesa che la venisse a recuperare recuperare la nonna nella piena responsabilità della sicurezza dell'aeroporto. A me aveva agghiacciato questo episodio, poi mi raccontava Matteo Prioschi, che ha sempre raccolto molte testimonianze in questo settore, e dice: ma guarda, io ne ho viste di tutti i colori in questi anni, quindi anche quello capita, bambini trattati come pacchi, soprattutto a volte quando sono figli di separati. Che ti succede, tesoro? La solita sensazione. Abbiamo dimenticato qualcosa? No, questa volta non credo, ma ho quella sensazione. Brutti ricordi, tutto qui. Abbiamo fatto tutto, abbiamo portato tutto, abbiamo portato tutti. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Sì, sì, hai ragione. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. No, tranne nel fatto che Kevin se ne stava tranquillo a casa. E allora ancora un altro estratto di Mamma ho perso l'aereo, anche se, come ho già ricordato all'inizio, insomma, questo film non è esattamente del tenore del tema che stiamo parlando questa mattina. Qua i minori rischiano di rimanere a casa se non partono con la documentazione a posto. Come vi abbiamo già raccontato dall'inizio, dal 26 giugno i minorenni possono recarsi all'estero solo se viaggiano con un documento di identità personale, e questa novità molte famiglie non la conoscevano, ed effettivamente questa novità ha rovinato le vacanze a molte famiglie, perché arrivate in aeroporto senza il documento di viaggio adeguato per i propri bambini, ho dovuto ritornare a casa, ho dovuto rimandare le vacanze, come è successo per esempio ad Andrea da Bologna, che saluto e sentiamo un po' come ha risolto. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi, scusate l'emozione, vi ringrazio per avermi dato la parola. Mi è successo, e cercherò di essere breve, di essere in aeroporto il 26. Proprio quel giorno lì, insomma. Esatto, ecco, ha fatto bingo. Subito, proprio alla mattina alle 7, mi stavo imbarcando su un aereo per andare a Madrid e ho passato il check-in col bimbo, ho passato i controlli della polizia, tranquillamente. Al gate hanno scaricato le valigie dall'aereo e ci hanno lasciato giù. È venuta fuori ovviamente una polemica che si è chiusa comunque partendo il giorno dopo agli stessi orari del 26, quindi sono ripartito il 27. Addirittura sembrava che dovessi pagare delle penali sul biglietto, per fortuna. Dove doveva andare tra l'altro, Andrea? Perché anche qui è interessante. Io dovevo andare a Madrid, cioè in realtà dovevo andare a Tenerife passando da Madrid con la compagnia Iberia. E quindi insomma è successa questa cosa qui. È stato molto imbarazzante. Senta, Andrea, no, siccome è rilevante questa informazione, lei aveva comprato un pacchetto turistico oppure aveva fatto da solo, aveva comprato i biglietti aerei internet? Ecco. Avevo comprato i biglietti aerei tramite internet a gennaio, quindi chiaramente in tutta la procedura lei aveva fatto sapere durante la trafila e la compilazione di tutti i dati che le venivano richiesti che stava viaggiando con un minore. Assolutamente sì. Ecco, e questa è la prima nota interessante. Quindi Iberia, la compagnia spagnola, nel procedimento di compilazione di tutto quello che dobbiamo scrivere quando appunto sottoscriviamo un'offerta di questo tipo, non in nessun passaggio ha informato Andrea che le regole stavano cambiando, e Andrea appunto comunicava che partiva il 26 giugno. Sono fondamentali appunto queste informazioni, Matteo Prioschi, per quale motivo? Perché possiamo chiedere eventualmente un rimborso, un indennizzo alle società che ci hanno intermediato la vendita? Allora, diciamo che stando quali sono le normative in vigore, c'è una possibilità di chiedere un rimborso se si è acquistato un pacchetto viaggi, in quanto il codice del turismo stabilisce che l'agenzia di viaggio, comunque l'intermediario che vende il pacchetto, deve fornire tutte le indicazioni, comprese anche quelle relative alla documentazione necessaria per affrontare il viaggio. Quindi se ci si trova in una situazione come questa, si ha, diciamo così, possibilità di rivalersi eventualmente per il nuovo biglietto acquistato, per i danni subiti nei confronti dell'agenzia di viaggio. Invece se si è acquistata direttamente, ad esempio appunto la compagnia aerea tramite sito internet, diventa molto più difficile, perché diciamo che non c'è una normativa stringente per cui si può imputare, diciamo, la colpa all'operatore. Tra l'altro l'ascoltatore faceva riferimento appunto a eventuali penali che doveva pagare. Cioè, stando così, diciamo, alle regole standard, se uno compra una tariffa non, diciamo, non modificabile e resta a terra perché ha i documenti non validi, di solito la responsabilità cade sul viaggiatore, che si deve ricomprare il biglietto o pagare le penali per cambiare data. Può essere che, diciamo così, in questa fase critica di entrata in vigore della nuova normativa, le compagnie aeree poi chiudono un occhio, come magari appunto è successo all'ascoltatore, non facendo pagare le penali. Certo, perché e comunque concedendo... ha capito che c'era una sua carenza, diciamo, esatto, di comunicazione. Tra l'altro, dottor Gagliardi, abbiamo sentito il caso di Andrea, che ha risolto abbastanza rapidamente il suo caso senza farne anche molta polemica, ha accettato di partire il giorno dopo, lui ce l'ha fatta appunto, ma nel caso in cui si fosse rovinato un viaggio un po' più complicato per un nucleo familiare, secondo lei che tipo di iniziativa avrebbe potuto intraprendere appunto il malcapitato di turno? Perché appunto, ribadisco, ad Andrea è andata tutto sommato bene, tra l'altro doveva partire proprio nel giorno in cui entrava in vigore appunto la nuova normativa, ma per casi più complessi secondo lei che cosa suggerisce di fare? Ma purtroppo non ci sono escamotage particolari, nel senso che comunque occorre procurarsi un documento di viaggio per il minore. I documenti sono quelli che abbiamo detto prima, cioè carta d'identità e passaporto. Per il passaporto io la cosa che mi sentirei di consigliare è quella di, senza ascoltare troppi superflui consigli anche in aeroporto magari, fuorvianti per certi versi, andare semplicemente nella sede più vicina, e di solito vicino agli aeroporti c'è sempre una sede della questura che può emettere passaporti. A Roma c'è il commissariato di Fiumicino, che è molto vicino all'aeroporto, in cui ovviamente si va incontro al cittadino che ha un'esigenza di partenza immediata, e il passaporto come procedura richiede 20 minuti, mezz'ora per essere emesso, se non ci sono problemi. Cioè, ecco, quindi, se non ci sono problemi, perché poi bisogna anche vedere... Se non sono problemi, consideri, vuol dire che non viene emesso per niente, ma qua stiamo parlando di minori, cioè i problemi di solito sono di carattere penale, dipendenze, quindi non è il caso di solito dei minori, per cui non ci sono problemi. Noi stiamo impegnandoci moltissimo, sono stati aumentati anche gli organici di queste sedi proprio per questo, per riuscire a sopperire alla criticità che c'è. Senta, e questa è l'unica. Sì, dottor Gagliardi, c'è, a proposito del caso che abbiamo ascoltato in precedenza, della signora che aveva la ragazzina di quasi 16 anni, che saranno compiute appunto ad ottobre, quindi una quindicenne pronta a partire per Londra, viaggia senza problemi per Londra con la carta d'identità, ma c'è un ascoltatore che ci segnala: vi state dimenticando dell'obbligo di accompagno per i minori che espatriano senza genitori. In questo caso appunto la procedura di accompagno come funziona? Con una richiesta di assistenza speciale da parte degli assistenti di viaggio? Per fortuna ancora non siamo in corso in questo genere di amnesia. No, dopo i 14 anni il documento di accompagno non occorre più. Ah. È vero che alcune compagnie aeree addirittura lo richiedono all'interno dell'ambito nazionale, cosa che assolutamente non è prevista. È chiaro che noi in certi casi lo rilasciamo comunque, ma è ridondante e non previsto dalla legge, perché appunto prevede la possibilità, anzi l'onere e il dovere, di far accompagnare il minore di 14 anni da soggetti che ovviamente abbiano il consenso dei genitori del minore a che questo accompagnatore assuma questa responsabilità, e abbia anche il consenso dell'accompagnatore a compiere quel viaggio determinato e specificato. Quindi è un documento che ha una validità molto limitata ad un solo viaggio in quell'occasione per quel posto. Quindi è un documento anche relativamente semplice, non ha oneri fiscali di nessun genere, viene rilasciato dalla questura e dagli uffici della questura, e ha questo tipo appunto di funzione, cioè individuare chi accompagna il minore, soggetto che ovviamente deve aver acconsentito, e sapere per certo che i genitori o chi ha la potestà genitoriale acconsente a questo fatto e individua chi accompagna il figlio. Benissimo. Alberto da Biella, buongiorno. Buongiorno a voi. Premetto che comunque io sono molto favorevole a questo provvedimento, però devo dire che non vi è stata assolutamente un'informazione adeguata da parte di enti locali, nostri locali, il nostro comune, province. Quindi sotto questo aspetto devo dire che c'è stata una carenza di informazione notevole. Ma guarda, addirittura per caso Ci sono degli ascoltatori che lamentano il fatto che per esempio non ci siano stati adeguati spot pubblicitari sulle reti di Stato, ed effettivamente questo è classico servizio pubblico che poteva essere fatto, visto che qualche volta per esempio quando si parte con l'estero ci si raccomanda tanto, la RAI lo fa, di visionare sul sito della Farnesina le condizioni dei paesi a rischio e quant'altro. Questo era veramente il minimo sindacale che avrebbe dovuto fare. Detto questo, ci mancherebbe altro che mi metta a contestare l'operato delle reti concorrenti. Ci dica Alberto. L'ho saputo per caso, comunque da un'impiegata comunale che me l'ha detto così, di questa cosa, ci stiamo muovendo. E poi una domanda volevo fare. Per le compagnie di navigazione, anche su tratte nazionali, mi è stato detto che è necessario il documento. Volevo avere un'informativa un pochino più approfondita sotto questo aspetto e vi ringrazio tutti. Grazie molte, Alberto. Zuccotti, allora torno da lei per chiederle appunto se anche per viaggiare in traghetto abbiamo bisogno di documenti di identità. Ah, senta, guardi Zuccotti, ci metto anche Angela da Palermo, anche se non è sotto la sua giurisdizione, però ha una domanda che forse le possono aver rivolto anche alcuni cittadini lombardi. Angela, buongiorno, così mettiamo insieme due domande. Salve. Sì. Sì, appunto, la mia domanda è la stessa quella posta da Alberto. Se per viaggiare nel territorio nazionale ci sono delle nuove regole per accompagnare i minori quando questi sono accompagnati appunto da uno solo dei due genitori oppure da altri parenti, quali nonni, zii. Grazie molte, Angela. Allora, Zuccotti, accontentiamo... Sì, sì, è un problema che è abbastanza diffuso, come dire, focalizzato. Sì. Allora, io come dicevamo nella preparazione con lei, abbiamo notato dalle istanze degli utenti, intanto, e lo confermava anche Gagliardi prima, una certa tendenza a personalizzare il diritto da parte di determinate compagnie, in questo caso aeree, su voli nazionali. Parliamo di voli nazionali e di viaggi nazionali, perché se parliamo di andare all'estero col minore, allora la normativa è quella che abbiamo detto finora e deve essere chiaro che il minore deve avere un documento suo. Sulle tratte nazionali, parliamo quindi di viaggi aerei o anche viaggi navigazione, quindi traghetti e quant'altro, in realtà non esiste un obbligo giuridico a che il minore viaggi con il documento. Posso capire, e questo lo capisco per le compagnie aeree soprattutto, la necessità di avere l'identificazione di chi è esattamente a bordo. E questo mi sta bene, questo può valere anche per i traghetti. In ogni caso il consiglio da cittadino prima che da funzionario è quello di dire: avete il minore, fategli sta carta d'identità, durerà 3 o 5 anni a seconda dell'età del minore, certo. Comunque fategliela, così si taglia la testa al toro. Per molto la questione dei traghetti è molto scorretto invece il fatto di richiedere per delle tratte nazionali delle altre autorizzazioni, che sono quelle di cui parlava Gagliardi prima, che sono le autorizzazioni a far espatriare il minore non accompagnato, che invece sul territorio nazionale non hanno assolutamente ragion d'essere. E questo è capitato anche a me, quindi divento cittadino oltre che funzionario vostro consulente. Mi è successo l'anno scorso, rientrando in aereo dalla Puglia con il mio bambino di 2 anni, e mi è stata richiesta, ovviamente lui volava coi nonni, per evitargli anche una bella 10 ore adriatica, l'abbiamo fatto volare con i nonni e c'è stata richiesta una dichiarazione di assenso dei genitori, quando se l'avessimo messo su un treno nessuno si sarebbe accorto di nulla. E quindi da questo punto di vista secondo me le compagnie dovrebbero se non altro rivedere queste procedure. Ecco, però in ogni caso il fatto che l'auspicio sia quello di così suggerire una revisione, adesso le compagnie in ogni caso possono chiedere una documentazione di questo tipo. Quindi l'ascoltatore appunto... L'invito è di munirsi della carta d'identità, almeno in ambito nazionale, in quanto si evitano problemi. Ecco, sulla documentazione aggiuntiva sul volo nazionale mi sentirei di dire che non ci vuole nessuna autorizzazione da parte del genitore se il minore vola con la nonna o con un parente. Sentiamo il supporto di Gagliardi, se vuole darlo. Sì, condivido pienamente tutto quello che ha detto il collega, perché in effetti è semplicemente così per legge, cioè non serve nessun documento di accompagno, però qui questa storia di aumentare i documenti, di sovrapporli, probabilmente crea anche un minimo di confusione nell'utente. Qua si tratta di due cose profondamente diverse, cioè il documento di accompagno è una cosa che serve per espatriare, punto. sul territorio nazionale non ha nessuna, nessun senso, perché il bambino si muove comunemente sul territorio nazionale, non sempre con genitori né con documenti di questo tipo, è ovvio. Per espatriare serve e nessuno lo ha mai contestato. Altra cosa molto distinta da questa è l'aspetto evolutivo, l'evoluzione che c'è stata sicuramente in questa, con questa normativa. Cioè il fatto che i minori abbiano un loro documento d'identità, ritengo che sia una questione di crescita civile, di sicurezza ampliata e garantita in maniera molto più efficiente. Su questo secondo me non ci dovrebbero essere equivoci, cioè noi siamo il documento d'identità che abbiamo, per semplificare in maniera estrema. E questo, se vale per noi come elemento di sicurezza e di necessità su un piano pubblico, a maggior ragione dovrebbe valere anche per i minori. Per i minori, certo. Luca da Brindisi, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi dato spazio. Io volevo fare una domanda. Io sono un dipendente del Ministero della Giustizia e la mia amministrazione rilascia un documento d'identità, una tessera BT, quelle di color verde, per il coniuge e per i figli fino a 18 anni. Mm. Io l'ho fatto rilasciare ai primi di gennaio di quest'anno alle mie due figlie minorenni. Ora volevo chiedere, alla luce di questa normativa, i documenti sono entrambi validi per l'espatrio, volevo chiedere, valgono ancora come documenti o ne devo fare degli altri, perché con la nuova normativa sono venuti meno? Mm. Grazie. Grazie, grazie a lei Luca, voi viaggiamo veramente in un territorio a me sconosciuto. Mario Gagliardi, che cosa suggeriamo all'ascoltatore? Lui ha già questo documento speciale rilasciato dal ministero presso il quale opera. È perfettamente valido, anche se ha l'ampiezza di validità di una carta d'identità, perché è considerato un documento equipollente. Quindi non di un passaporto, ma le stesse peculiarità della carta d'identità. Però ha detto che è valido per l'espatrio. Sì, è valido per l'espatrio, ma ha le stesse caratteristiche di carta d'identità e lo stesso valore, quindi è riconosciuto nei paesi mediamente, appunto, Schengen e dintorni, ha una validità limitata, quindi questo dipende moltissimo da dove ci si vuole recare. Certo. In quest'ambito questi documenti sono validi da anni, riconosciuti e non hanno creato mai problemi particolari. Oltre questo ambito, il consiglio è sempre quello di avere il documento precipuamente individuato, cioè il passaporto. Allora, sentiamo invece Cesare da Pisa, che è un bimbo piccolissimo. Sono piccolissimo, buongiorno, ho 29 anni, quindi insomma, grazie del piccolissimo. No, dicevo Cesare ha un bambino piccolissimo. Ah, sì, ok, buongiorno. Niente, no, il discorso è questo, io volevo prima farle una domanda e poi volevo fare una considerazione. Sì. Allora, mio bambino, vabbè, è nato ora, quindi il problema io eventualmente me lo porrò il prossimo anno se e come. Per minore si intende naturalmente anche un bambino che ha meno di un anno, oppure, ecco, questa è la domanda che faccio, volevo sapere se... Sì, Cesare, grazie. Sì, e la considerazione che volevo fare è che, questo non riesco a capire, e con questo non voglio, diciamo, mettere in croce nessuno, ma non riesco a capire come un genitore che programma e prepara un viaggio non riesca a vedere che c'è una legge che è stata attivata, né per radio, né per internet, né per giornale, né per telegiornale. Lo so, Cesare, sa, qui è... Allora, devo dire la verità, che noi che facciamo anche un lavoro che ci porta a documentarci su tutto, a leggere tanto, sa quante cose anche a me sfuggono, che magari mi interessano direttamente, poi magari me ne rendo conto quando mi trovo a affrontare concretamente un problema. Per cui, Cesare, voglio dire, rivendichiamo un po' tutti il diritto all'ignoranza. Io direi che più che le famiglie, che è giusto che sappiano che c'è questa novità e quant'altro, però soprattutto per persone che prenotano viaggi non in maniera così casuale ma si affidano a dei professionisti, io sono un po' più preoccupata del fatto che tutti gli operatori del settore non abbiano dato le dovute informazioni alle persone che stavano prenotando le loro vacanze estive, ma non necessariamente la vacanza, perché ci si può anche dover spostare per tutt'altre esigenze e quindi magari rinviare di un giorno la vacanza può essere un danno, magari far annullare un viaggio di altro tipo può essere un danno ancora più importante. Per cui io qua, diciamo che più che mettere in croce le famiglie che non sanno, ci metterei di più gli operatori del settore. Detto questo, quando un minore è minore? Matteo Priolschi. Da quando nasce, quindi anche se ha pochi mesi si può fare la carta d'identità, in questo caso dura solo 3 anni, perché da 0 a 3 anni la durata appunto è di 3 anni, ma la può fare esatto, e poi vanno ricambiati i documenti perché i bambini crescono e cambiano la fisionomia, quindi anche lì non è un obbligo perché le amministrazioni si divertono, perché le leggi appunto ci impongono di fare certe cose così per divertimento, ma perché appunto Mario Gagliardi, chiedo ancora il suo aiuto, e chiaramente qua cambiamo, noi invecchiamo, i bambini per fortuna crescono, diventano più belli, cambiano la loro fisionomia, quindi progressivamente anche i documenti devono essere modificati ed aggiornati per questa ragione. Sì, questo è un altro aspetto finalmente giustamente individuato tecnicamente proprio per avere un documento che sia utile. Quindi, dato che serve a riconoscere un soggetto, se la foto non è più corrispondente non ha nessun senso. E dato che adesso il primo documento in teoria lo si può fare in sala parto, perché va da 0 a 3 anni, è evidente che in quella fase, in quella fascia di età, i cambiamenti anche fisici sono particolarmente considerevoli. Ben radicali, sì, infatti. E quindi le foto devono inseguire il cambiamento del bambino, questo è il concetto. Andrea Zuccotti, le chiedo un aiuto anche per un'altra questione che stanno sollevando molti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Molti parlano di possesso da parte loro, per conto dei loro bambini, di un documento che chiamano carta bianca. Mi stavo chiedendo con Matteo Prioschi se fosse il certificato di nascita. Matteo, stavamo dicendo questo, sì, ipotizzavamo, sì. Zuccotti, come la chiamano in gergo nei suoi uffici? Allora, nel gergo, ma vi faccio fare una risata, a Milano la chiamiamo Pierino. Ah, perché? Perché guardando le foto di solito, siccome i Pierini si rilasciavano appunto ai bambini, allora ci veniva in mente immediatamente questa immagine simpatica. Un'ascoltatrice, Cristina da Moncalieri, ci scrive: mia figlia di 3 anni ha sempre avuto prima la carta bianca valida per l'espatrio, poi dall'anno scorso la carta d'identità, ma a differenza della carta bianca, sulla carta d'identità non risultano i nomi dei genitori. No, ecco, questo non è preciso, perché c'è stata proprio una circolare ministeriale molto recente, e anzi un intervento normativo sulla norma che parla del rilascio della carta d'identità, dove è stata prevista da parte del Ministero dell'Interno la possibilità di scrivere i nomi dei genitori sul retro della carta d'identità fino ai 14 anni del minore. Quindi adesso noi siamo in grado, i comuni sono in grado di rilasciare, parliamo delle carte d'identità cartacee e non apriamo il tema carte d'identità elettroniche, che non mi sembra pertinente, ma sulla carta d'identità cartacea di un minore di 14 anni siamo in grado di apporre un timbro con i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci, perché qua poi bisognerebbe aprire un tema rispetto a quelle situazioni in cui o ci sono separazioni in corso o ci sono delle situazioni, diciamo, di litigiosità tra i genitori. Infatti. Ecco, su questo però mi consenta, Deborah, di dire una cosa. Voi genitori tenete sempre presente che la capacità di esprimere il consenso all'espatrio del minore dipende dalla potestà genitoriale. Pertanto, a prescindere di come il giudice della separazione ha deciso l'affidamento dei figli, e potrebbe anche essere un affidamento a un solo genitore, tuttavia da parte dell'altro genitore rimane la potestà di dare l'assenso o meno all'espatrio. Sì, infatti qualcuno toccava anche questo aspetto, adesso non vorrei aprire anche questa parentesi che rende ancora più complicato e complesso il nostro dibattito. Atteniamoci intanto a quello che è cambiato il 26 giugno, poi magari in un'altra circostanza troveremo il modo anche di approfondire questi aspetti. L'ultima domanda di oggi la assegno a Paolo della provincia di Pistoia. Vedo molte famiglie che quest'anno hanno deciso di mandare i propri ragazzi in Inghilterra, ci fa piacere, a studiare l'inglese con questo bel clima che si è anche creato con le Olimpiadi. Paolo però ha avuto qualche problema, rapidissimo, la stiamo chiudendo. Sì. Mi sente? Sì, rapido. Beh, allora, rapidissimo, questura di Pescia, chiediamo l'appuntamento online, cioè il passaporto online per fare l'affidamento, il consenso all'espatrio affidando la figlia tredicenne alla scuola, ci presentiamo, nessuno oltre noi ovviamente, appuntamento prenotato su internet, dice questo non è un passaporto, dovete tornare, quindi altra mezza giornata di ferie per tutti e due i genitori, il prossimo mercoledì tutte e due a firmare nello stesso ufficio con la stessa gente, perché si sono rifiutati di fare quel documento che ci mettono 10 minuti poi a prendere i nomi e le fotografie, perché avevamo fissato il passaporto online e non il documento per l'espatrio online. Vabbè Paolo, allora adesso non riesco ad approfondire questo suo caso, magari se mi vuole scrivere cercherò di fare un confronto con i nostri interlocutori, insomma l'importante è che abbiamo capito quello che è cambiato dal 26 giugno per tutti coloro che stanno partendo e se ne sono dimenticati. Grazie a Mario Gagliardi, Andrea Zuccotti e Matteo Prioschi, da Deborah Rosciani, buona giornata, domani.